In strada, qualche minuto più tardi. Are we going to Greve by bus? No, non ci andiamo in autobus, ci andiamo in macchina. Ah, ok, in macchina. Ma la mia macchina è al parcheggio. Andiamo al parcheggio in autobus. Ho capito. Un momento, dov'è la sua borsa? È qui. Ah, bene, allora andiamo.